Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Holly came from Miami, FLA. E buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti e tutte. Benvenuti all'ascolto della terza puntata di Poi You It, Lettere Contrarie, la nuova trasmissione, ormai non più così nuova, di letteratura di Radio Wombat. Siete anche oggi tantissimi all'ascolto, saluto tutti quelli che ci stanno sentendo e anche tutti quelli che ci ascolteranno in podcast nei prossimi giorni. Poi You It, Lettere Contrarie, come ricorda la descrizione che abbiamo fatto sul sito della radio, è un programma tutto dedicato alla letteratura e più precisamente a quella letteratura portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Romanzi, saggi, poesie e riviste accomunate dalla convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere sempre condivisa e accessibile a tutti. Allora, ricordo subito che potete contattarmi in diretta sul pad del sito della radio, si trova nella prima pagina cliccando su diretta Wombat oppure apposta Wombat @insiberia.net. Ricordo anche, ma la faccio veloce perché del resto l'abbiamo già detto nelle scorse puntate, che questa trasmissione nasce in occasione, in concomitanza col Festival della Letteratura Sociale che tutti gli anni a maggio viene organizzato in Polveriera, negli spazi di Santa Pollonia, in centro a Firenze. Quest'anno, per ovvie ragioni, non si terrà nella sua dimensione fisica, o almeno non adesso, voglio dire non con presenza di autori, editori, banchini, pubblico, eccetera, ma si svolgerà probabilmente in questa forma dopo l'estate. Questo però non ci ferma, anzi vogliamo tenere bene la barra dritta per questo maggio e anche il prossimo mese per giugno. Infatti abbiamo dato vita a questa trasmissione Lettere Contrarie, durante la quale ascolteremo quelle voci di autori, editori, redattori, lettori che avremmo messo fisicamente assieme appunto durante la 4 giorni del Festival di Letteratura. Lo facciamo invece qui via radio e infatti parliamo di argomenti di letteratura sociale e oggi direi più che mai. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do-do-do-do-do-do-do-do-do. Dunque, la scorsa settimana abbiamo parlato, domenica scorsa, delle mitiche mille lire di stampa alternativa. La prossima settimana avremo ospite Edoardo Olmi, poeta, autore, editore, con la sua prossima pubblicazione. Ci annuncerà anche alcuni libri di Ensemble che presenteremo più avanti all'interno di questa rassegna. Quest'oggi invece parliamo di Zona Letteraria, una rivista edita da Prospero Editore in formato libro che ogni 6 mesi, a maggio e a novembre, individua un argomento di carattere sociopolitico e lo affronta dalla prospettiva della letteratura e delle arti visive, soprattutto la fotografia. Come sentiremo fra poco, il collettivo redazionale si pone nel solco tracciato da Stefano Tassinari, fondatore nel 2008 della rivista Letteraria. Il sottotitolo di questa rivista di Zona Letteraria è Studi e prove di letteratura sociale, e perciò ci sembrava assolutamente adatto per stare nella cornice del festival, appunto, di letteratura sociale. Holly came from Miami, FLA. Oggi assieme ad Agostino Giordano parleremo di un sacco di cose. Parleremo della storia e dell'attualità di questa rivista. Parleremo di cosa significhi letteratura sociale, di quale ruolo di trasformazione della società questa letteratura può avere, e chiederemo consigli di autori e di testi di letteratura sociale. E poi, nella seconda parte della lunga intervista che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, parleremo di poesia, sì, perché è proprio a questo argomento che è dedicato il prossimo numero in uscita questo mese, fra pochi giorni, a fine maggio. Ma direi di non anticiparvi più niente, anche perché l'intervista è molto ricca, e l'abbiamo quindi divisa in due parti. Le sentiremo in sequenza, ci mettiamo a un fine primo tempo, un po' dopo la metà, con una canzone. Prima di procedere, voglio farvi un invito, sì. E vi vorrei invitare a raccontarci quali sono i vostri 5, o quanti volete, ma 5 sembrava un bel numero rotondo, i vostri 5 libri preferiti, oppure quelli che vi hanno cambiato la vita, in meglio o magari anche in peggio, ma insomma quei 5 libri che più di altri vi hanno segnato. Quali sono quindi quei 5 libri che consigliereste, o magari anche sconsigliereste, perché no? Raccontatecelo magari mandandoci un bel messaggio vocale alla messaggeria del Wombat. Si trova il link sempre nella prima pagina del sito della radio, wombat.noblogs.org, oppure anche scrivetecelo sul pad, o forse meglio ancora all'indirizzo di posta elettronica postawombat@insiberia.net, oppure per vie traverse, conoscenze o come volete fateci arrivare un audio di qualche tipo. Saremo assolutamente felici di ritrasmetterlo. Ripeto, quali sono i vostri 5 libri, diciamo, preferiti? Jackie is just speeding away. La proposta di fare questa domanda è venuta fuori in una discussione tenuta la settimana scorsa assieme agli altri organizzatori del Festival di Letteratura. Ha già girato un po' informalmente per il passaparola e già ci sono fra l'altro arrivate un paio di risposte. Le prossime, insomma, quelle che ci manderete da oggi in poi, le trasmetteremo a partire dalla prossima puntata. Però adesso mi farebbe già piacere mandarvi le prime due, sì. La prima è di Cecilia, una studentessa, una compagna, una militante. La seconda che sentiremo è invece di Fabrizio, professore di lettere all'Istituto d'Arte di Firenze. Ascoltiamole. I 5 libri preferiti e perché. Il perché credo che sia comune per tutti. Credo che sia perché in quelle parole, in quelle pagine, ho trovato piccoli pezzi della mia vita. Avete presente, no? Quando leggete e dite esatto, è proprio questo che provo, ma non ho saputo mai dirlo così. E poi ancora perché, ancora oggi quando ne guardo le copertine, ripenso ai momenti in cui li ho letti, ripenso a quello che mi hanno dato, a quanto mi hanno segnato, agli spunti che porto con me ormai e che sono diventati scelte di vita. Ed eccoli qua i miei 5 libri preferiti, non in ordine di importanza. Saltatempo di Stefano Benni e Il quartiere di Pratolini, Fine pena ora di Elvio Fassone, e Valen di Davide Grasso, che racconta il suo viaggio in Siria del Nord-Est come combattente delle YPG. E in ultimo, per poter dire due parole, c'è Alla fine di ogni cosa di Mauro Garofalo, ed è il racconto di Rucheli, un giovane pugile zingaro che sfidò la Germania nazista vincendo il titolo che poi gli fu revocato. E questo libro l'ha scritto Mauro, un amico, un compagno con cui per tanti anni abbiamo condiviso il piacere dello sport popolare nelle palestre popolari di Milano, ed è stato un rivale nonché maestro di box popolare. E quindi lo saluto e vi consiglio caldamente la lettura del suo libro. La prima volta che ho sentito il nome di Johan Rucheli Trollman avevo appena finito di allenarmi al sacco. Con le mani ancora fasciate e i guantoni, appresi che la vicenda del pugile a cui il nazismo aveva tolto il titolo di campione perché zingaro. Per tutta risposta, la volta dopo, Trollman era salito sul ring con il corpo cosparso di farina, i capelli tinti di giallo, si era lasciato battere. Quell'uomo aveva messo in scena la sconfitta dello stesso fanatismo ariano che ora lo crocifiggeva. Aveva avuto il coraggio di guardare dritto in faccia il grande male del Novecento. Mi resi conto che quella non era una storia qualsiasi, era una sfida e dovevo seguirla. Mauro Garofalo, quinta di copertina di Alla fine di ogni cosa. Ciao a tutte e tutti! Allora, buonasera, il mio nome è Fabrizio Aiello e i cinque libri da me selezionati sono Nel mondo a venire di Ben Lerner, un romanzo, questo scrittore americano, un libro secondo me incredibilmente attuale. La strada di Cormac McCarthy, anche lui scrittore americano, e anche La strada, un breve romanzo oggi più che mai attuale anche questo. Il romanzo di Michel Houellebecq, Estensione del dominio della lotta. Houellebecq è invece uno scrittore francese. Poi un classico dei classici di Céline, Viaggio al termine della notte, che ha avuto uno scritto incredibilmente potente nella sua musicalità e nella sua articolazione. E per concludere, il mare di Jules Michelet. Del mare, che poi di questi, quello che ho scelto, vi posso garantire essere un libro assoluto, totalizzante, perché non è un romanzo, è un saggio se vogliamo, ma non ha i caratteri del tipico saggio. È una narrazione incredibilmente profonda che riesce ad avere dei tratti poetici che scardinano tutto quello che noi possiamo ipotizzare rispetto a un saggio, ma anche a un romanzo, e parla di noi. Parla di noi esseri umani, parla dell'amore, parla della vita, parla della morte, parla della leggerezza, della pesantezza. E io penso che si dovrebbe ripartire da qui, dall'acqua e dall'acqua appunto del mare. E, una frase breve tratta dal testo. Michelet a un certo punto afferma: l'amore nasce prima dell'essere. E questa la dice lunga, ve lo consiglio vivamente. Grazie, arrivederci. Grazie a te Fabrizio, grazie a Cecilia e grazie a tutti gli altri che ci manderanno anche loro nei prossimi giorni la lista dei loro cinque libri preferiti. Saremo davvero felici di ritrasmetterli e magari poi vediamo di organizzare una bella puntata speciale alla fine di questi 2 mesi di trasmissione. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says hey babe. Ammesso fra l'altro che non si sia così entusiasti da voler continuare avanti tutta fino all'infinito con questo programma di letteratura, cosa assolutamente non improbabile. Va bene, quindi ripeto l'invito a mandarci a chi ci ascolta su postawombat@insiberia.net scrivendoli o allegandoci un messaggio vocale oppure usando la messaggeria del Wombat che sta nella prima pagina del sito, i vostri audio. Siamo curiosi di sapere qual è la vostra lista, l'aspettiamo con impazienza. Sì. Take a walk on the wild side and the colored girls go doo-doo-doo. Ma ora è l'ora di procedere con l'intervista ad Agostino Giordano attorno alla la rivista Zona Letteraria e riguardo al nuovo numero di questa rivista in uscita, appunto, ricordo, a fine mese. Prima di farlo però ricordo intanto gli indirizzi, un paio di indirizzi web, lo ricorderò anche alla fine, sui quali si possono trovare aggiornamenti su Zona Letteraria. Il primo è il sito dell'editore, prosperoeditore.com, l'altro è la pagina Facebook, facebook.com/zona letteraria, oppure semplicemente scrivendo Zona Letteraria, ci sono gli annunci, gli aggiornamenti, c'è già l'immagine di copertina del numero sulla poesia, sì. Quindi, prima di mandare l'intervista, vorrei l'ultima cosa mettere una canzone, una canzoncina che avevo promesso la scorsa settimana, poi per ragioni di tempo mi ero allungato decisamente troppo, iniziava la trasmissione La fuga del gatto sulla musica classica alle 17, che ci sarà infatti anche oggi dopo questa diretta, e allora non l'ho mandata. La trasmissione della scorsa settimana era riguardante le 1000 lire di stampa alternativa e la canzone che sto per mandare di Endrigo mi sembra assolutamente intonata. Ricordo che sia quella puntata, sia le altre, sia questa che state adesso ascoltando, le potrete tutte ritrovare nella sezione podcast del sito della radio cercando il nome della trasmissione. Poi UIT, siete in tantissimi all'ascolto e spero che tantissimo vi godrete questa intervista, ascoltiamola, beh, e noi ci sentiamo subito dopo. Take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Ragazzina che mi salti addosso, in agguato al semaforo rosso, per 1000 lire mi offri 2 rose, fazzoletti di carta e 1000 cose, e io distratto e stanco di guidare, senza volere mi metto a ricordare, 1000 lire del tempo che fu, molto prima che nascevi tu. 1000 lire, 1000 lire di una volta, la prima volta che l'ho viste tutte intere, ho capito che la vita era una svolta, che mi aprivano tutte le frontiere. 1000 lire, 1000 lire avventuriere, 1000 lire colorate, rosso e paglia, 1000 lire grandi come una tovaglia, un lenzuolo da piegare in otto, una coperta per stare caldi sopra e sotto, 1000 lire, 1000 lire, un terno all'otto, e volare felice in aeroplano, con la tua squadra andare su a Milano, in tribuna come un pascià, e la Triestina militava in Serie A. 1000 lire, almeno 1000 lire al mese, era un sogno, il sogno piccolo borghese, ma per chi ha sempre avuto il culo sul velluto, era uno scherzo bruciarli in un minuto. 1000 lire, 1000 lire, ti saluto. In tribuna come un pascià, e la Triestina militava in Serie A. Ragazzina, il ricordo si perde, nella bagarre del semaforo verde. Per 1000 lire ti compro le rose, 1000 lire di carta pidocchiose, 1000 lire e sei già in bolletta, compri il giornale e qualche sigaretta. 1000 lire e poi che ci fai? Oggi al cinema manco ci vai. 1000 lire ci compravi anche la luna, belle donne e velociferi a motore, ma non la gloria, gli amici e la fortuna, non si compra con la borsa il primo amore. 1000 lire, 1000 lire, traditore. 1000 lire, 1000 lire, che bellezza, ma si doveva cantare giovinezza. A dire il vero, io ero appena nato, però mi basta quel che mi hanno raccontato. 1000 lire, 1000 lire, sei fregato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. E, questa intervista rientra nelle iniziative che Radio Wombat sta mettendo in atto in occasione del festival, del quinto festival di letteratura sociale che normalmente nel periodo di maggio si tiene a Firenze nello spazio occupato La Polveriera, nel chiostro di Santa Reparata. Eravamo appunto, siamo arrivati al quinto appuntamento, però purtroppo la situazione che stiamo vivendo ci impedisce di tenere il festival, che probabilmente verrà posticipato, ma in radio stiamo presentando libri, riviste che avrebbero dovuto aver voce all'interno del festival. E oggi siamo qui appunto con Agostino Giordano. Buongiorno Agostino. Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori. Agostino Giordano è un insegnante, è un educatore nella città di Bologna ed è nella redazione di Zona Letteraria, Studi e Prove di Letteratura Sociale, così come si legge sotto la testata della rivista. Allora, poiché è evidente la, come dire, quantomeno la parentela di contenuti tra il nostro festival e la vostra rivista, ti chiederei innanzitutto di presentare ai nostri ascoltatori un po' la rivista. Che cos'è questa Zona Letteraria e che cosa significa studi e prove, no? Perché sembra quasi una premessa alla letteratura sociale. Sì, infatti è come se fosse un laboratorio in cui si prova appunto a fare della letteratura sociale. E Zona Letteraria è una rivista che, così come Zona Letteraria, è nata praticamente con la prima uscita, quella del primo novembre 2018, quindi è il primo novembre 2018 in cui la rivista è uscita con il nome Zona Letteraria, e la tematica con cui è uscito quel numero è sulla povertà. Infatti il titolo della rivista è La colpa di essere poveri, e vari scrittori intellettuali si esprimono sulla tematica della povertà. Perché dico è il primo numero è quello del primo è uscito il primo novembre 2018, però appunto non è il primo numero in assoluto, perché questa rivista ha avuto un'evoluzione, diciamo, ha avuto una storia anche particolare che non nasce sicuramente nel 2018, ma è ben più antica. Quindi diciamo il nome originario di questa rivista era Letteraria, rivista semestrale di letteratura sociale. Quindi, diciamo, Zona Letteraria nasce nel 2018 ed è l'evoluzione, appunto, in gran parte, diciamo, buona parte del collettivo originario, appunto, e invece aveva dato vita a Letteraria, rivista semestrale di letteratura sociale, che fu pubblicata per la prima volta, uscì per la prima volta il primo maggio, nel maggio del 2009. Quindi il numero uno è del maggio del 2009. E il collettivo redazionale era formato da diversi scrittori, alcuni più noti e altri meno noti, e artisti, diciamo, di vario genere, perché appunto la particolarità di questa rivista è che sin dal primo momento ha coinvolto in maniera poliedrica artisti, letterati. Vuoi fare qualche nome? Esatto. Allora, il fondatore, che poi è scomparso nel 2012, è Stefano Tassinari, diciamo, il direttore fondatore di questa rivista, che mise insieme tutta una serie di scrittori e intellettuali: Bruno Arpaia, Carlo Lucarelli, Gian Piero Rigosi, Mariano Sacco Trufelli, Alberto Sebastiani, i Wuming, il collettivo dei Wuming, Grazia Verasani, Simona Vinci, Massimo Carlotto, Pino Cacucci, Marco Pagliani. Nella prima, diciamo, nel primo numero c'era veramente di tutto e dei nomi anche molto forti. E ovviamente il nucleo originario è stato bolognese, e lo zoccolo duro è sempre stato, diciamo, quello bolognese, la gran parte della redazione, essendo nata a Bologna, era bolognese, però ha coinvolto poi anche scrittori e intellettuali di altre zone d'Italia, e ha avuto anche collaborazioni poi a livello internazionale. C'era Renzo Casali, Fulvio Pezzarossa, insomma, Milena Magnani, Stefano Colangelo, c'è un elenco che poi ovviamente cambiava anche poi a seconda delle collaborazioni, perché c'era il collettivo redazionale e poi anche tante collaborazioni che si sono susseguite nell'ambito di questo percorso. È nato nel maggio del 2009 sotto, diciamo, Editori Riuniti, la prima casa editrice che gli ha dato vita. Una casa editrice anche di rilievo. Esatto. Fu decise di promuovere questa rivista fu l'Editori Riuniti. Mentre la casa editrice dell'attuale rivista quale sarebbe? Prospero Editore. I primi due numeri furono Editori Riuniti, poi per diverse vicissitudini ci furono diversi problemi non entro nel merito, e si passò, diciamo, poi a una seconda casa editrice che è stata le Edizioni Allegre, e infatti Letteraria è divenuta Nuova Rivista Letteraria, e il primo numero è del maggio 2015. Parliamo di questa evoluzione da Letteraria a Nuova Rivista Letteraria. Il passaggio non fu nel 2015, ma fu nel 2010-2011. E praticamente divenne da Letteraria, divenne Nuova Rivista Letteraria. E la casa editrice fu Edizioni Allegre. Nel 2012 ci fu, sempre come Nuova Rivista Letteraria, ovviamente la scomparsa di Stefano Tassinari, e un numero speciale dedicato a lui. In che anno è venuto a mancare Stefano Tassinari? Stefano Tassinari è venuto a mancare nel maggio, l'8 maggio del 2012. Infatti nel 2020 saranno 8 anni dalla sua scomparsa. Quindi, diciamo, infatti ci fu nel maggio del 2012 un numero monografico tutto sulla sua figura, davvero molto interessante. Senti, Agostino, e invece la nuova redazione di Zona Letteraria Da chi è composta e dove si trova, dove è collocata? È sempre a Bologna, ha sempre il suo nucleo fondamentale a Bologna? Allora, sì, dopo c'è la zona letteraria, il nucleo principale è sempre bolognese, però la casa editrice è a Milano, il posto editore è a Milano, e diciamo lo zoccolo duro questa volta è sia Milano che Bologna. Diciamo, c'è stata un'evoluzione in questo senso, quindi uno spostamento del baricentro, però le riunioni si fanno della redazione a Bologna. La casa editrice è a Milano. Ovviamente in questa fase i contatti sono telematici, ma anche prima, diciamo, della fase coronavirus erano molto, ovviamente, la collaborazione molto a livello E ha telematico. una periodicità? Sì, diciamo che Sempre semestrale? la semestralità è quella, la caratteristica che viene fatta. Tendenzialmente sono sempre due numeri all'anno, Ecco, ecco. e per quanto riguarda l'impronta, no? Lo scopo della rivista, è rimasto lo stesso oppure c'è stata una mutazione con la No, fondazione no, lo della nuova scopo, ecco, rivista? è, diciamo che appunto le vicissitudini che l'hanno caratterizzata hanno sempre rimesso poi in discussione al centro lo scopo, l'obiettivo, eccetera, e si è sempre riaffermato questo, la volontà, diciamo, di ribadire l'impostazione, l'istanza, ecco, l'istanza letteraria iniziale, che era quella che Stefano Tassinari aveva proposto a tutta questa serie di scrittori e che puntualmente è stata rilanciata. Poi ovviamente sono cambiate le forme, però appunto l'impostazione di fondo è sempre rimasta la stessa. Avevo fatto il passaggio del 2000, perché ho detto 2015? Perché praticamente 2010 è il primo numero del 2010 di nuova rivista letteraria. Nel 2012 c'è lo speciale della rivista dedicata a Stefano Tassinari, ma poi praticamente nel maggio 2015 c'è stato un nuovo numero uno, sempre però sotto diciamo, la casa editrice Allegre, in modo particolare sotto la spinta del collettivo Vumec, che ne faceva parte, e infatti non a caso è stato rifatto numero uno, perché si è proprio cambiata anche la copertina, la modalità, perché diciamo la modalità precedente era di una copertina sganciata dal contenuto della rivista, quindi c'era anche un editoriale fotografico che percorreva grafico di fotografia che percorreva la rivista, sganciato dal contenuto. Invece il 1 maggio del 2015 si decide di fare un numero sulle, diciamo, contro le grandi opere e le dannose, inutili e imposte. Quindi, diciamo, tutti gli scrittori che si sono cimentati in questo hanno scritto e raccontato le lotte contro le grandi opere, le mobilitazioni contro le grandi opere, e anche la parte fotografica è cambiata, diciamo, quindi è diventata inerente a ciò che si stava scrivendo. E mentre con zona letteraria, poi, quindi col primo numero del 2018, si è tornati a questa, diciamo, anche forma precedente, cioè un po' diciamo, una parte monografica sulla fotografia, che viaggia a sé, che a volte può essere in sintonia con la rivista, altre volte no, a seconda poi, diciamo, di quello che decide il collettivo redazionale. Ecco, però Ecco. ti tengo a precisare che è importantissima, per noi è importantissima anche la parte fotografica. Infatti la Silvia Albertazzi, che poi in queste ultime, in questi, diciamo, nella nuova rivista, la sta curando in maniera particolare con il editoriale fotografico, come ci tiene tantissimo, anche perché è davvero fatta, è curata, è E davvero questa cosa fatta male. è Sì. interessante il legame appunto tra quello che può essere un'arte visiva, no? Come quella della fotografia, invece un'arte retorica, come ovviamente mette al centro la vostra rivista. Io mi permetto di, diciamo così, di fare un passaggio e di spostare la nostra intervista su quello che poi è il cuore sia del nostro festival, ma anche appunto della vostra rivista. E noi, ovviamente, dedicando il festival alla letteratura sociale, la intendiamo, come dire, come un'espressione, una letteratura, una cultura che si svincola dalla mercificazione e cerca in un certo modo, quindi, di contrastare quella che è una. Le narrazioni tossiche, no? Costruite anche ad hoc per celare quelle che possono essere le contraddizioni di questa società. Quindi una letteratura è in grado di contrastare questo, la narrazione dominante, no? Ed è questo quello che ha caratterizzato il nostro intento nel festival di dare voce a questo tipo di letteratura. Poi, però, poiché io penso che sia importante tornare su questo, sul significato, no, di questa categoria, letteratura sociale, visto che, Agostino, tu sei un insegnante, proviamo a spiegarlo in modo quasi anche semplice, non per niente banale, ma semplice, che forse è anche più difficile in certi casi, no? Che cos'è la letteratura sociale per te innanzitutto, ma per la vostra rivista? Guarda, proprio semplificando al massimo, per me l'idea di letteratura sociale è quell'idea che pone la letteratura in un ambito di bene comune, cioè in un ambito di fruibilità, innanzitutto, e soprattutto è quel tipo di letteratura che diventa in qualche modo partigiana, che esprime un punto di vista sulle cose, sulla quotidianità, sulla storia, sulla memoria, in maniera partigiana, cioè che vive in qualche modo il conflitto, le contraddizioni, e in qualche modo cerca di interpretare chi in maniera specifica porta delle istanze, no? delle contrapposizioni, delle rivendicazioni. Ecco. Ritornando indietro a quel famoso numero, quel primo numero della rivista letteraria, mi piace sempre citarlo perché, diciamo, Stefano Tassinari probabilmente riusciva a rendere in maniera molto efficace quest'idea. Quando lui proprio doveva descrivere la nascita di Letteraria, no? Lui disse proprio: è nata Letteraria, e questo lettoriale del primo numero, rivista semestrale di letteratura sociale, termine al quale intendiamo fornire l'accezione più ampia, capace di contenere elementi quali storia e memoria, conflitto e lavoro, attualità e cambiamento di costume e così via. Cioè, lui in questa frase, cioè, riesce, diciamo, a esprimere forse al meglio qual è l'obiettivo di chi può provare a fare letteratura sociale, e quindi far emergere come centrali la questione della storia, della memoria, del conflitto e del lavoro, cioè gli ambiti in cui esplode la contraddizione. E attenzione, anche considerando poi la molteplicità, la varietà di questi ambiti. Stefano Tassinari era anche uno scrittore, un intellettuale poliedrico, cioè che riusciva appunto, e anche questo si vede nella nostra poi diciamo produzione letteraria legata alla rivista, che coinvolgeva vari ambiti, quindi la musica, la fotografia, l'immagine, il cinema, la poesia, la letteratura, la prosa, cioè era la musica e anche poi la militanza politica, cioè riuscire a connettere tutta una serie di arti, di saperi, considerandoli bene comune, appunto, e rendendoli il più possibile fruibili, rendendoli il più possibile diciamo legati a uno schieramento sociale, ecco. Così. Quindi se per letteratura sociale quindi si può intendere quindi mille forme anche di espressione, no, di quelle che possono essere contraddizioni, ma soprattutto voci, no, sì, di queste contraddizioni, e tu prima parlavi delle grandi opere, no? Quindi sì, io immagino alle lotte Notav e non soltanto, esatto. Quindi espressione anche di queste soggettività. Ecco, sì, ma letteratura sociale poi può avere questo tipo di letteratura può avere un ruolo anche nella trasformazione della società, può avere un ruolo, o è semplicemente, come dire, un'espressione alta, un'espressione lirica, un'espressione metaforica, di soggettività che normalmente non trovano espressione attraverso il grande, nel grande mercato, nella narrazione dominante. No, diciamo che dovrebbe averlo, cioè nel senso che l'utopia in questo senso è quello, cioè dovrebbe ambire a fare, a svolgere quel ruolo lì, altrimenti appunto diventa accademia, oppure resta accademia e resta esercizio autoreferenziale. Se invece fa quel passaggio, riesce anche a esercitare un ruolo attivo nella trasformazione, nel radicamento di conflittualità oppure anche nella costruzione di immaginari, perché no? Riesce a essere parte attiva e dinamica e fa il salto di qualità, a mio giudizio. E non è un caso che il nostro, comunque, pur avendo l'ambizione di provare a farlo, rimane un laboratorio, una sperimentazione, perché purtroppo non siamo ancora in quella fase in cui la letteratura riesce a essere codificata per questo. E purtroppo la letteratura, nella gran parte dei casi, è codificata per altri motivi. Oggi, appunto, prevale l'ambito del mercato, della diciamo, sottomissione culturale, l'egemonia culturale da parte dei poteri forti. Ecco, E se... provare a costruire altro è sicuramente questo, diciamo, l'obiettivo. Non a caso, ad esempio, uno dei numeri della rivista, ad esempio quello del 2016, è stato proprio sull'utopia, è incentrato sull'utopia e sui luoghi in cui questa utopia si prova a realizzare, no? Anche una mappatura di quelli che sono gli spazi sociali alternativi in Italia. È stato fatto questo, perché proprio andando a incontrare le soggettività, ad esempio come la vostra, no? Io all'epoca feci un'intervista ai compagni dell'ex asilo Filangieri di Napoli, cioè all'epoca c'è anche il Macao a Milano, che ho intervistato, insomma tutta una serie di realtà che comunque provavano e provano a costruire cultura altra, e sicuramente l'obiettivo della nostra rivista è anche quello di valorizzare questo tipo di esperienze. Ecco. Ecco, se te dovresti, proviamo a fare così, dare, anche per dare materialità, no? Perché abbiamo un po' cercato di descrivere in questa nostra chiacchierata che cos'è questa letteratura sociale, ma se poi noi dovessimo dare dei consigli di lettura, no? La letteratura moderna si esprime nella sua forma storica, lunga, antica, come quella della poesia, ma anche nella forma ormai non proprio, come dire, giovane, perché ormai ha dei secoli alle spalle, come quella del romanzo, no? Ma se volessimo dare dei suggerimenti nell'ambito dei romanzi, della letteratura sociale, quali ti sentiresti di suggerire come letture? Sì, guarda, il primo nome, essendo voi fiorentini, diciamo toscani, il primo nome che mi viene in mente, anche perché comunque ha collaborato con noi con la nostra redazione nella parte precedente, diciamo, nella vita di letteraria, di nuova rivista letteraria con Allegre, è quello di Alberto Brunetti, ad esempio, no? E il suo romanzo Amianto è uno di quelli che mi sentirei di suggerire in questo momento come prototipo, no? Di letteratura sociale, che comunque esprime un punto di vista specifico, ma anche la sua collana Working Class, che è nell'ambito ad esempio delle edizioni Allegre, no? Che promuove anche una serie di scrittori che parlano del punto di vista, diciamo, di chi il lavoro lo ha vissuto, lo vive nelle contraddizioni, no? Di chi ha ancora davanti delle lotte, nello specifico ha portato avanti, diciamo, un percorso anche di vissuto opposto a quello dominante rispetto, ad esempio, alla conflittualità capitale-lavoro, Sì, no? infatti, ma noi anche conosciamo bene questi titoli che hai detto e questi autori, perché sono transitati anche da noi. Sì, oppure ad esempio per quanto riguarda la poesia, Ecco, sì. la Milena Magnani, che è una poetessa scrittrice che comunque si occupa, che collabora e collaborato con noi, che ad esempio attraverso, diciamo, lei tenta di mettere insieme attraverso una piccola casa editrice, Casa Rosata, tutta una serie di scrittori, poeti che hanno, esprimono un punto di vista sicuramente che è quello del, diciamo, della marginalità, no? Anche di settori sociali marginali. Lei anche è un'educatrice e diciamo considera proprio il punto di vista degli esclusi, anche la poesia che cerca di raccontare e di far emergere è quella degli esclusi, no? È quella degli emarginati, quindi diciamo, sono diciamo dei modi e sono degli autori, o comunque degli scrittori, dei poeti che tentano appunto di proporre un punto di vista alternativo. E a me piace molto, ad esempio, la definizione che i Buminghi diedero qualche anno fa ormai degli oggetti narrativi non identificati, no? I Buminghi ovviamente hanno una dimensione, cito i Buminghi perché sono altri comunque autori che anche se sono il grande mercato, però voglio dire esprimono comunque un punto di vista, cioè esprimono letteratura sociale secondo me ovviamente anche ad alti livelli, magari appunto più conosciuti, però in questo senso diciamo così, correttamente più ad ampi livelli perché sono più conosciuti, però diciamo la definizione che mi piace e che loro riportano degli oggetti narrativi non identificati mi piace anche perché è utile perché si può considerare letteratura sociale anche non semplicemente quella codificabile in letteratura o in prosa in un romanzo, in un racconto definibili tali come racconto romanzo poliziesco più invece che altre definizioni, ma c'è questo questa vastità e comunque anche non identificabilità delle varie forme quindi si può riscontrare letteratura sociale davvero in tantissimi ambiti, no? Pensiamo anche a quello che oggi può offrire la rete anche nel bene rispetto alla produzione che si può avere di poesia o di letteratura o anche alla musica, no? Io penso io riesco a fare ad esempio della letteratura con i miei ragazzi proponendogli i testi dei rapper, no? Diverse volte gli ho proposto i pezzi degli Assalti Frontali e quelli, diciamo, come far intendere meglio a un ragazzo oggi la poesia se non attraverso, diciamo, la musica, attraverso il rap, no? Soprattutto uno che magari è distratto, non ha voglia di essere coinvolto, non vuol sentire parlare di poesia e letteratura perché l'associa a quello che si fa a scuola, no? Certo. A trovare anche delle modalità alternative differenti lo si può fare anche attraverso dei pezzi musicali, no? Dei pezzi rap. Ma infatti se noi mettiamo al centro la narrazione, no? Come uno degli elementi qualificanti della letteratura e cerchiamo narrazioni da contrapporre a quelle dominanti e cerchiamo delle narrazioni che svelano invece quelle che possono essere contraddizioni del reale, le narrazioni possono essere molteplici, possono trovare diverse forme, diversi linguaggi, anche appunto nell'ambito dell'arte retorica, che poi si può intrecciare e non è una cosa soltanto contemporanea, l'intreccio tra le arti, voglio dire, ha una storia antichissima. La stessa poesia nasce dalla musica ha una genesi nella musica stessa. Tra l'altro così rilancio anche una riflessione. Sì, c'è il romanzo, c'è la poesia e che tu associavi anche ai testi musicali. Sarebbe da capire, per esempio, mi veniva in mente mentre parlavi, anche le fiabe, no? Le fiabe che un tempo avevano un valore enorme perché avevano un ruolo di costruire questi miti fondativi, questi anche ruoli educativi, costruzioni di identità, soprattutto per le giovani generazioni, per i bambini, e servivano per sdoganare attraverso linguaggi metaforici quello che era, no? Il mondo, no? Con le sue rappresentazioni, con le sue immagini, e sarebbe interessante capire se anche nell'ambito della letteratura sociale ci può essere un posticino anche per le fiabe, magari Infatti non a caso nel numero che uscirà della rivista dedicato alla poesia c'è, comunque c'è un articolo che ha scritto Sebastiani su Gianni Rodari, quindi ci sarà questa cosa, questo pezzo non a caso rientra nell'ultimo numero, nel prossimo numero della rivista, ad esempio. Look yonder coming down that railroad track. Hey, look yonder coming down that railroad track. It's the orange blossom special, bringing my baby back. Back to Florida. When am I going back to Florida? I don't know. I don't reckon I ever will. Ain't you worried about getting your nourishment in New York? Oh, I don't care if I do die, do die, do die, do die, do die. Hey, talk about a rambling. She's the fastest train on the line. Talk about a travel. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special, rolling down the seaboard line. Senti, allora, visto che ci sei arrivato te da solo, all'ultima domanda di questa nostra intervista che sta andando a termine, perché appunto... Ci stiamo avvicinando verso il termine della nostra intervista, però io ci tengo moltissimo affinché si possa essere presentato per bene anche l'ultimo numero, non soltanto la storia, una discussione, come dire, importante che abbiamo fatto fino adesso. Però ecco, l'ultimo numero che deve uscire, se non ho capito, a poche settimane. Ora purtroppo c'è questa situazione, però insomma, voglio dire, ne verremo fuori, poi la rivista è semestrale e quindi ci sarà tempo per poterla sfogliare anche cartacea, visto che le librerie poi sono aperte, tra l'altro, in molte città d'Italia. Ecco, a che cosa è dedicato l'ultimo numero della rivista? E appunto il prossimo numero della rivista che uscirà, non si sa ancora, appunto a causa delle vicissitudini dell'ultimo periodo, dovrebbe uscire all'incirca fra un mesetto, diciamo, stando nella peggiore delle ipotesi, comunque è il prossimo, e sarà appunto proprio dedicato alla poesia. Sarà un numero incentrato sulla poesia e infatti, diciamo, i titoli che ad esempio troviamo in questo numero, e vanno appunto dai contributi che vanno sulla poesia e i femminismi, ad esempio, un tentativo di mappatura della poesia oggi, cioè di dove e di come si produce poesia oggi. Ci sarà un pezzo, appunto sempre per legare all'ambito della letteratura sociale, di Gianfranco Manfredi, secondo me dal titolo molto interessante. Aspettate che... mandatemi libri che mi insegnano a rubare. Cesare Lombroso e la poesia carceraria di fine Ottocento. Ovviamente Gianfranco Manfredi, sempre con la sua abituale, diciamo, una vena un po' provocatoria, però appunto cerca di dare anche di restituire alla poesia il senso anche dell'esigenza di rappresentare un'istanza sociale, l'antimilitarismo, l'antifascismo nella poesia di Trilussa. Ecco, diciamo, ci sono vari pezzi, tutti incentrati sulla poesia, quindi appunto sarà un monografico sulla poesia. Ci sarà La poesia dell'incontro, un pezzo di Paolo Vachino su Franco Arminio, Corpo e voce dell'invisibile. Adesso sto citando dalla bozza dell'editoria del numero che sta per andare in stampa, ovviamente, che sarà, spero, disponibile quanto prima. Ecco. Io ho fatto un'intervista in questo numero ad Alberto Bertoni, infatti il titolo proprio... ecco, poi l'altro pezzo un pezzo di Alberto Sebastiani su Gianni Rodari per adulti, appunti su filastrocche e binomi fantastici della musica italiana contemporanea. Questo è il pezzo di Alberto Sebastiani che tratterà, appunto, si occuperà di Gianni Rodari. Visto che l'avevi citato, infatti era venuto in mente. E invece io, appunto, ho fatto questa intervista ad Alberto Bertoni, che comunque anche lui faceva parte del nucleo originario della rivista, poi non ha più collaborato con noi, ma è rimasto comunque un punto di riferimento, ed è ovviamente lui un professore, è un accademico, insegna letteratura italiana all'Università di Bologna, è poeta e scrittore, e a lui tra l'altro ho posto anche l'elemento, no, un po' della contraddittorio, no, di essere accademico, però allo stesso tempo parlare e portare avanti le istanze di letteratura sociale. E infatti poi, tra l'altro, lui il pezzo si intitola Poesia contro la distrazione, perché una delle ultime cose che mi ha detto, insomma, proprio riferita alla poesia, è proprio che è un antidoto, è uno strumento efficace proprio al giorno d'oggi contro la distrazione, no? Contro la vita. In che senso? Mi incuriosisce questa... Perché quasi io alcune volte la distrazione la vedo quasi... Cioè, approfondiamo questo, no? Che cosa intende lui per distrazione, perché in alcuni casi la distrazione è quasi rivoluzionaria, no? In un mondo che ti vuole sempre attento, sempre connesso... Esatto, è vero, però lui paradossalmente faceva il discorso inverso. Cioè lui dice, guarda, ti leggo proprio dalle parti finali, perché lui... parlava di un suo saggio che aveva scritto su Auschwitz, in cui appunto aveva fatto emergere sia l'argomento Auschwitz, storia e memoria, trattato sia sotto forma di prosa che di poesia, no? E poi alla fine, al netto dei colpevoli diretti, dice è stata quella che sarebbe una percezione automatizzata o abituale. Noi purtroppo, cioè lui diceva, al netto del fatto che molti non considerano la storia la memoria, noi purtroppo siamo schiavi della chiacchiera e il potere ci vuole distratto. Lui lo riferiva alla distrazione rispetto ai fenomeni della memoria, quindi al fenomeno della memoria, e quindi faceva l'esempio di come oggi passano in cavalleria tanti elementi della memoria, e invece passano formalmente, ufficialmente, elementi di storia distorta o spesso anche falsata, no? Beh, di sicuro, di sicuro. E infatti lui dice: la poesia è uno dei più potenti antidoti contro la distrazione che siano mai esistiti, perché stimola la nostra pulsione al bello, perché ci fa vedere le cose da un punto di vista che non avevamo sospettato potesse essere, ci mette nella condizione di condividere con un altro questa parola che viene da lontano, viene da un altro tempo, da un altro luogo. Cosa abbiamo a che fare noi con Emily Dickinson, questa virginia del New England, eccetera, dell'Ottocento? Eppure Emily Dickinson è di una potenza nelle sue brevi poesie apparentemente semplici, che ci lascia a bocca aperta e che parla alla nostra civiltà di oggi, parla alla nostra visione progressiva e progressista della nostra realtà odierna e alla nostra attuale necessità di democrazia. È chiaro che lui fa riferimento in questo senso alla distrazione intesa del fatto che quasi come ignoranza delle cose, ecco, no? Non nel senso che intendevi, chissà, tu di distrarsi dall'attenzione, no? Certo. Ma questo senso non può essere considerato una... In questo senso, allora mi sorge così una domanda, perché spesso e volentieri il linguaggio della poesia viene ritenuto un linguaggio per pochi, viene reputato un linguaggio per una ristretta cerchia di persone che ha innanzitutto degli strumenti, ma soprattutto anche di sensibilità. A questo tipo di posizione, a questo tipo di visione della poesia, invece, tu come ti sentiresti di rispondere? La poesia può avere, ha giocato e può ancora giocare, come dire, invece, un ruolo, appunto, come lo stavi descrivendo te? Assolutamente, può averlo può averlo, e per quanto, diciamo, mi riguarda, e lo testimonia anche il fatto comunque che io non sono un accademico, ecco, non sono un esperto di letteratura, non sono un esperto di poesia, però sono entrato in questa rivista che appunto vuol fare della letteratura sociale, stimolato da una persona che, diciamo, era tutto il contrario degli intellettuali che descriveva Majakovskij, no? Non so, la massima di a me rimane sempre, per quanto riguarda gli intellettuali, come riferimento alla massima di Majakovskij, che diceva: in una nave che affonda gli intellettuali sono i primi a fuggire, subito dopo i topi e molto prima delle puttane. Cioè, nel senso che l'intellettuale è, tra virgolette, borghese, istituzionalizzato, ben pensante, è tutto il contrario di quello che oggi deve essere per me l'intellettuale oggi. Quindi non dico di rifarmi un intellettuale di organico, di gramsciana memoria, però voglio dire, è un intellettuale sicuramente che è dentro le cose, che è dentro le contraddizioni e che sicuramente prova a portare il punto di vista letterario della costruzione letteraria, della costruzione della narrazione letteraria all'interno delle istanze di lotta, all'interno delle istanze, tra virgolette, marginali, delle istanze alternative. Ecco, no? Ma quindi in questo senso è molto attuale, ed è molto la letteratura sociale e il fatto di voler oggi, anche ad esempio, fare della poesia, fare della narrazione, fare della prosa, non significa che uno deve fare cose non di alto livello, ma anzi può farle anche utilizzando però degli strumenti e dei mezzi e delle forme che più gli appartengono, che più gli sono congeniali. L'importante è che si crea, no, come ad esempio i narratori dialettali, no? I cantastorie dialettali, cioè quanta poesia hanno fatto, eppure non erano degli accademici, però hanno scritto, hanno costruito anche attraverso delle forme dialettali che all'intellettuale snob, no? Magari fanno storcere il naso, però hanno scritto delle poesie, dei testi incredibili, no? Io vorrei affrontare un passaggio dell'editoriale che ho avuto, diciamo così, la fortuna di leggere prima che, appunto, dell'uscita della rivista, proprio in occasione di questa intervista che tu mi hai mandato gentilmente, e parla di recuperare la funzione sociale e rivoluzionaria della poesia. Ecco, questo mi sono interrogato un po' su questo, e ovviamente alla luce della discussione che abbiamo avuto fino adesso mi è anche, come dire, un po' più chiara, però vorrei porti lo stesso questa domanda, soprattutto per quanto riguarda una questione. Di solito la politica, e quando si parla di rivoluzione soprattutto, no? Si parla di politica, ha delle esigenze a cui la poesia può, come dire, non poter, non dover rispondere, soprattutto come magari tempi, linguaggi, interessi, cioè l'espressione poetica, la, soprattutto quando si parla di poesia che illumina anche i lati più scuri, no, dell'io, no? I lati più nascosti, più insondati dell'io, che cerca gli elementi più universali, più di lunga, come dire, dell'animo umano, e quindi è in grado di parlare sì a tutti gli esseri umani, ma non solo nel luogo, ma anche nel tempo, in tempi diversi e in luoghi diversi. Ecco, provocatoriamente ti potrei dire, ma non è riduttivo una poesia che deve recuperare una funzione di ambito politico? Non è restrittivo? Non è che si ricade in una vecchia discussione come c'è stata in epoche passate in cui la cultura aveva effettivamente incontrato la politica, no? Ne abbiamo avute diverse discussioni di questo genere anche nel nostro paese. Che cos'è per te quindi questa riscoperta di questa funzione rivoluzionaria e sociale della poesia? Secondo me, diciamo, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, cioè questo è un interrogativo che mi ha sempre affascinato e mi ha, diciamo, non è neanche semplice darsi una risposta, cioè nel senso apparentemente sì, nel senso apparentemente uno può dire ok, bisogna recuperare la funzione sociale rivoluzionaria della poesia, rimane uno slogan, può anche semplicemente anche dar fastidio, no? Cioè, come se fosse uno slogan, invece recuperare l'autenticità significa il più possibile non solo ricercarla, quindi diciamo da un lato, e quindi in questo senso, poiché non è qualcosa che manca, evidentemente è un'esigenza, no? Mentre le altre risposte, gli altri punti di vista ci sono, questa manca, è un'esigenza e quindi in qualche modo va recuperata. E dall'altro lato, può, come ritornando al discorso che facevamo prima, può essere utile tra virgolette, alla causa, no? Nel senso che può contribuire in maniera efficace anche poi alla trasformazione culturale e sociale che comunque che ha un'istanza altra e alternativa rispetto allo stato di cose vuole, no? Io il primo, se non sbaglio, proprio il primo scritto, la prima penso che scrissi per questa rivista, sollecitato da Stefano Tassinari, fu appunto sul poeta e scrittore della mia terra, originario, ovviamente io sono originario della Basilicata, sono nato nel 99 a Bologna, non sono bolognese, e questo scrittore... Come tanti a Bologna, mi verrebbe da dire. Esatto, questo scrittore, poeta, lucano, che era Rocco Scotellaro, e fece un pezzo proprio su di lui e intitolai il pezzo Perché l'azione sia sorella al sogno, e praticamente trovai un libro dedicato a lui da Franco Fortini, no? E per descrivere questo giovane che era era socialista, un leader delle lotte contadine, che è stato anche sindaco di un paesino in Basilicata, poi molto giovane, insomma, lui lo descrive in questo modo: vi fu un giovane, perché secondo me dà l'idea di quello che oggi un po' deve essere anche, sì, no? la poesia e la letteratura sociale. Vi fu un giovane, figlio di povera gente, di un povero paese del sud, che negli anni della vergogna, della speranza del suo paese, seppe inserire il suo bisogno di bontà e di giustizia nelle forme di un secolare moto politico e agire per il socialismo. Il dolore del passato del suo popolo e quello del suo presente, gonfio di interrogativi, di tradimenti e di angosce collettive ed individuali, gli hanno dettato alcuni versi puri e liberi. Leggeteli e sperate. Il suo cuore è anche il vostro. Ed agite perché la fraternità non sia solo un sentimento. Perché i poeti, per esistere, non debbano essere come cartellini accecati, ma perché la fraternità sia nelle cose, nelle istituzioni, nel pane che mangiate, nel vino che bevete. Perché l'azione, come disse 100 anni fa un grande poeta francese, sia sorella al sogno. Quel giovane si chiamava Rocco Scotellaro. Lui, ovviamente, Franco Fortini scrive negli anni 70, si riferiva a Baudelaire, no? L'azione sorella al sogno. E ovviamente è quello che il Rocco Scotellaro, sindaco, ovviamente leader contadino, poeta, scrittore, insomma, è chi ha chiaro che incarnava un po' per noi che facciamo, che vogliamo oggi fare letteratura sociale, il prototipo, no, dell'ideale di intellettuale di riferimento, comunque l'intellettuale come dovrebbe essere oggi. Però oggi dà anche l'indicazione del fatto che se noi troviamo l'ambito in cui si sviluppa conflittualità, si propongono delle istanze, si sviluppano, diciamo, dei punti di vista differenti, è molto facile anche in qualche modo individuare poi degli intellettuali, degli scrittori, dei poeti, dei cantastorie, dei semplici anche magari persone che in quel momento raccontano un'esperienza, una lotta, una marginalità, un punto di vista altro, e può diventare poesia, può diventare prosa, può diventare letteratura. E diciamo che nel nostro sogno allora potrebbe essere, il nostro sogno potrebbe essere così, che in questo senso la poesia, proprio perché è anche portatrice di linguaggi slegati alcune volte da anche dalla contingenza politica nel senso più amministrativo del termine, no? Più spicciolo, quella che poi fugge agli avvenimenti quotidiani che dettano i social media o i quotidiani, alla quotidianità, diciamo, della politica, la poesia che ha uno sguardo più profondo anche all'animo, a mano a mano, il nostro sogno potrebbe essere che, riscoprendo la sua funzione sociale e rivoluzionaria, possa trasformare lo stesso linguaggio della politica in un momento come questo, soprattutto della politica, come dire, antagonista e anticapitalista, che ha un compito importante, perché noi abbiamo un orizzonte, quello del capitalismo, che si pretende onnipresente per sempre, universale, insuperabile, no? E poiché noi sappiamo, noi voglio dire, siamo compagni e compagne di una sinistra che ha le radici in quei movimenti che hanno avuto il sogno di sovvertire questo sistema, sappiamo che il nostro problema è proprio qui, cioè nel fatto di riuscire di nuovo a immaginare e a progettare un futuro diverso e a ritrovare anche linguaggi evidentemente nuovi. Chissà se la letteratura e la poesia non può essere di aiuto, pur sapendo, come dire, che rispondono a regole retoriche diverse, la politica e la letteratura. Certo, speriamo. Un'ultima cosa prima di salutarti, magari. Certo, dimmi. Ti invito innanzitutto a leggere la rivista, certo. E poi anche a leggere gli autori e gli scrittori che collaborano, che ovviamente hanno poi delle loro produzioni, perché sono davvero molto belle. Ad esempio, facciamo i nomi. Dai. Ho citato alcuni, però, ad esempio, Peppe Ciarallo, che comunque. Quello che dopo la morte di Stefano D'Assinari ha tenuto in piedi un po' la baracca, no? Ed è attualmente quello che fa un po' il nostro direttore insomma, della rivista, e che è anche uno scrittore, poeta anche lui, Gianfranco Manfredi, Paolo Pacchino, la Silvia Albertazzi, che appunto che cura la parte monografica, Sergio Rotino, Giovanni Marchetti, Rudy Chedini, che tra l'altro si occupa anche di letteratura sportiva, è anche uno scrittore che ha scritto di letteratura sportiva, la Cristina Muccioli, Alberto Sebastiani, insomma, sono tutti, poi collabora ormai sistematicamente anche Moni Wadia con noi, quindi a volte magari riesce a contribuire, a parte volte no, però insomma abbiamo anche lui, Gabriele Riner Imposti, Luigi Franchi, insomma sono tantissimi, c'è Gianfranco Manfredi, l'avevo detto prima, che fa, diciamo, ci sarà anche nel prossimo numero, e quindi diciamo leggete leggete soprattutto, insomma, chi poi riesce a produrre delle cose importanti e significative. Va bene, grazie mille di questa chiacchierata, Agostino. Grazie, quindi rinvitiamo, l'ultimo numero uscirà a poche settimane, di Zona, a breve, esatto, di Zona Letteraria, studi e prove di letteratura sociale, Prospero Edizioni, e il numero di l'ultimo numero, che cioè il prossimo numero, è dedicato alla poesia, il quarto numero dedicato alla poesia. Ciao, buona serata, Agostino. Grazie, buona serata a te e agli ascoltatori. Grazie. Ciao. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Rieccoci, tornati in diretta dopo questa lunga, interessantissima intervista. Siamo lunghissimi con i tempi, quindi non perdo decisamente tempo in nulla, tranne che in ciò che è importante, cioè ricordare l'indirizzo Facebook, facebook.com/zonaletteraria, dove ci sono già informazioni approfondite sul nuovo numero in uscita, il sito dell'editore prosperoeditore.com. Ricordo anche che si può riascoltare questa puntata, così come le prossime e le scorse, sul sito della radio nella sezione podcast. Domenica prossima con Edoardo Olmi parleremo di poesia e quindi andiamo bene in continuità col nuovo numero di Zona Letteraria. Dopo di me, fra 10 minuti, in diretta andrà in onda La Fuga del Gatto, il nostro consueto programma sulla musica classica, e poi alle 19 con la diretta quotidiana delle 19 ci sarò di nuovo io, cazzeggeremo tantissimo questa sera, sì sì. Poi più tardi la replica di Uru e le solite letture di mezzanotte, quindi rimanete sintonizzati su Radio Wombat, ancora un sacco di programmazioni per questa domenica culturale. Vi ringrazio tutti voi che siete all'ascolto e anche tutti quelli che magari ci ascolteranno più avanti. Ringraziamo Agostino Giordano per questa intervista e tutti quelli che ci hanno mandato e che ci manderanno anche la loro lista dei loro 5 libri preferiti, che siamo qui volentieri ad ascoltarla e a ritrasmetterla. Ci sentiamo domenica prossima con Poi You It, ci sentiamo con me alle 19 per la diretta e adesso ci ascoltiamo assieme La Fuga del Gatto, Wombat! Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy, D-Mike. See, I usually do songs with, like, hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare.